Vieni, vieni, Santo Spirito. Vieni. Guida coloro che si sono sviati, sin et tuo numine, nihil est in homine, nihil est in nox. Vieni, Santo Spirito. Dalla giustizia di ciascuno nasce la pace per tutti. Giustizia e pace non sono concetti astratti e ideali lontani, sono valori insiti come patrimonio comune nel cuore di ogni persona. Individui, famiglie, comunità, nazioni, tutti sono chiamati a vivere nella giustizia e ad operare per la pace. Nessuno può dispensarsi da questa responsabilità. Vieni, vieni Santo Spirito, vieni Padre dei poveri, vieni Luce dei cuori, vieni Datore della grazia che salva, vieni Luce, invadi nell'intimo il cuore degli uomini, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, guida coloro che si sono sviati, lava, infondi coraggio, sana le ferite dei cuori, sin et tuo numero, nihil est in homine, nihil est in nox. Santo Spirito. Thank you. Mighty wind invades the world.